straordinario questo flusso sonoro costruito dal grande Makoto Kawabata dall'album Inui volume 3 uscito nel 2005, uno splendido album di questo personaggio eclettico tra i fondatori e membro degli Acid Mother Temple e anche in altri progetti come Zoffi e Makari, oltre ovviamente alle produzioni individuali come Makoto Kawabata, come in questo album Inui l'abbiamo inserito anni fa come seconda parte all'interno di 451 frammenti sonori in una vecchia trasmissione. Adesso ci siamo ascoltati un brano da Inui volume 3, poi ha fatto anche il 4 e il 5, ha continuato questo percorso oltre a una produzione discografica piuttosto sostanziosa dal 2000 fino al 2010, praticamente circa 15 album, dunque estremamente prolifico questo musicista che si muove in molti e variegati settori e linguaggi musicali, affrontando spesso attraverso delle linee sonore, degli strumenti e delle melodie, dimensioni tradizionali rimasticate appunto in un'ottica di new traditionalist all'interno soprattutto di una quadratura che può essere definita di avant folk, dunque di folk d'avanguardia, di ricerca e di rivalutazione totale, di rimasticazione anche della definizione stessa di folk. Trasmissione dunque che è ripartita in questa seconda parte con l'ingresso assolutamente maestoso di Makoto Kawabata da Inui volume 3 e trasmissione che appunto ha sviluppato il suo percorso nella prima parte prima del GR di Radio Popolare con Six Organs at Hermitage, Suburban End of a Man, Richard Skelton e David Toop, oltre ovviamente all'ultimo lavoro che abbiamo appena ascoltato. E adesso ci spostiamo dal giapponese Makoto Kawabata, rientriamo diciamo nella terra americana e andiamo a scoprire un nuovo artista che si è mosso negli ultimi anni all'interno della dimensione finger picking, ma non solo. Lui è un maestro, è un personaggio che suona un'infinità di strumenti a corde, oltre appunto alle chitarre a 12 corde, finger picking, si è sviluppato e si è specializzato anche nell'autocostruzione, nella modificazione di uno strumento tipico della musica popolare country americana, il banjo, e l'ha talmente modificato da arrivare con la costruzione di un banjo a 21 corde con un suono estremamente particolare che andremo proprio ad ascoltare. Il personaggio è Paul Metzger, che appunto ha iniziato la sua progettualità musicale con il primo album che è uscito nel 2004 per poi svilupparsi anno per anno con vari progetti, varie collaborazioni di altri musicisti e ovviamente vari album prodotti. Noi ci andiamo a ascoltare proprio il secondo album che è uscito nel 2005, Free Improvisation of Modified Banjo, uno splendido lavoro dove appunto emerge la particolare ricerca sonora sul banjo modificato a 21 corde e ci andiamo ad ascoltare proprio da questo brano, da questo disco, un brano, quello di apertura, che dà l'idea appunto di un banjo, un strumento tipico tradizionale che viene rimasticato con collegamenti chiari ovviamente al passato e alla musica tradizionale americana, ma con una modificazione tale da diventare qualcos'altro, addirittura in una certa maniera scatta un flusso sonoro che si può ben agganciare all'altro flusso che abbiamo appena ascoltato di Makoto Kawabata. A questo punto immergiamoci nel flusso di Paul Metzger da Free Improvisations of Modified Banjo. Thank you. Thank you. siamo dovuti rientrare in diretta un po' anche uccidendo il brano, ma in realtà il brano è lunghissimo, dunque abbiamo ovviamente creato un frammento di un quarto d'ora circa di questo splendido flusso di Paul Metzger. Abbiamo ascoltato appunto da Free Improvisations for Modified Banjo, uscito nel 2005, e con questo brano, splendido lavoro sul strumento banjo e l'atmosfera anche creata con dimensioni sonore e spaziali differenti nel corso dell'elaborazione musicale, andiamo a trovare il prossimo personaggio importantissimo della scena della musica sperimentale e dell'elettronica, dei collettivi musicali, degli esperimenti musicali più arditi dalla fine degli anni 60, fondatore del progetto Musica Elettronica Viva, che spesso abbiamo mandato all'interno delle nostre trasmissioni, soprattutto quelle che attraversavano la musica contemporanea dell'elettronica e una certa improvvisazione appunto connessa comunque alle strumentazioni elettroniche e il progetto Musica Elettronica Viva. Richard Teitelbaum l'andiamo invece a pescare in un album recente uscito nel 2002 per la New Albion, intitolato Blends, progetto che ha visto praticamente rappresentare da parte di questo musicista assolutamente importante nella scena della musica elettronica sperimentale tra gli anni 60 e 70, elaborare e esprimere il suo amore verso il Giappone e le musiche legate appunto alle tradizioni giapponesi. Non a caso si è fatto, diciamo, aiutare da un grande maestro di shakuhachi, che non so se ho pronunciato giusto, uno strumento tipico tradizionale giapponese, Kyotaku Denshi, e insieme ad altri musicisti, sia giapponesi che americani, ha costruito questo omaggio alla sonorità di uno strumento tipico giapponese, alle melodie, ai suoni e alle armonie della musica giapponese, ovviamente dialettizzate con una certa sperimentazione di tipo elettronico, da cui proviene lo stesso Richard Teitelbaum, una sorta di linguaggio doppio, una sorta di dialogo fra linguaggi differenti, tra dimensioni sonore e anche culture molto diverse, e il risultato è sicuramente un album molto suggestivo che crea quasi dei paesaggi sonori legati alla dimensione giapponese, ma esplorati da un possibile, appunto, in termini definitori, straniero di questa terra sonora. Ce l'andiamo ad ascoltare, ovviamente il brano di apertura, perché è il più rappresentativo anche delle sonorità e delle atmosfere di questo album, sempre all'interno appunto dei nostri percorsi dentro le nuove tradizioni. Richard Teitelbaum, Blends. Thank you. Thank you. Thank you. Siamo rientrati in diretta dopo questo splendido flusso Blends 2002 Richard Teitelbaum e continuando, diciamo, nel sviluppo connesso al flusso di questa trasmissione di stasera dedicata al New Traditionalist, Avant Folk in sottotitolo, andiamo a trovare un progetto abbastanza recente, composta questa formazione alla fine degli anni 90, formazione americana costituita fondamentalmente dai due fratelli Kellum, a cui si sono abbinati Red Chomsky e Ray Davis, a costituire una formazione che si è mossa tra post rock, folk e anche alcune dimensioni tra lo space rock e anche dimensioni psichedeliche. Formazioni di riferimento di questa compagine denominata Dulled Drums sono sicuramente le Ashrae Temple, che sono stati un punto focale di partenza per questo progetto, che poi si è dipanato attraverso varie sperimentazioni e varie linee piuttosto tortuose. E noi andiamo a pescare un disco uscito per la VHF del 2000 esatti, proprio intitolato Feng Shui, che riprende anche certe musiche, certe dimensioni sonore giapponesi riportate in una dimensione completamente differente dal punto di vista del bagaglio culturale e della provenienza di questa formazione americana, che elabora soprattutto nell'ultimo pezzo una sorta di omaggio utilizzando strumentazioni che ricordano sicuramente la dimensione cinese. Scusate, mi ero confuso, non giapponese ma cinese, che è una bella differenza, è come appunto come se uno che non è europeo confondesse noi tedeschi, insomma c'è una certa differenza culturale e chiaramente storica anche tra le due popolazioni e le due terre. Ecco, dunque, correggendomi proprio nel finale di trasmissione, Dulled Drums ripercorre appunto queste sonorità rimescolandole all'interno di strumentazioni occidentali con quelle orientali. E con Dulled Drums oltretutto chiuderemo il nostro percorso sonoro di stasera, ma ovviamente prima ascoltiamoci questo lavoro e poi ci risentiremo in diretta per i saluti e i commiati da questa ultima trasmissione. Intanto facciamoci trasportare dal flusso di Dulled Drums. Thank you. E siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione di stasera con questo splendido lavoro di Doldrums da Feng Shu, uscito nel 2000. Chiudiamo dunque così 451 frammenti sonori. Ovviamente vi aspettiamo sempre domenica prossima, sempre alle 23:35 circa. Una buona nottata da Eliseo Scarpa e ovviamente buon ascolto con i programmi notturni di Radio Città del Capo.